sdraiare sopra quel prato verde che è anche il tuo. Esci e vai a camminare e guardando il cielo ti sentirai ancora più vivo. Esci dalle illusioni di un mondo perfetto che perfetto non è. Esci e fatti sentire con la forza che hai dentro, ti sentirai ancora più vivo. Si impastano e rimpastano le idee, e basta è la mia incredulità, fondo dei continui turbamenti, rimasta la tua immensa umanità. Giorno dopo giorno cambi faccia, il tempo appassisce la tua età, fa credere che tutto sia finito, ma tutto quanto partirà da qua. Sarai mai solo, qualcuno ti parlerà. Esci e vai a respirare, respirando profondamente ti sentirai ancora più vivo. Passano e rimpassano le idee, e vasta è la mia incredulità, nel fondo dei continui spostamenti è rimasta la tua immensa lealtà. Giorno dopo giorno cambi faccia, il tempo appesantisce la tua età, credere che tutto sia finito, quanto partirà da qua. We'll be right back.